ringraziamo per la sua presenza ad accompagnarci ad aprire e inaugurare questa mostra. Quindi ecco, siamo adesso a Gianluigi Mazzuffari, che è stato anche bravo a consegnarmi i testi per da esporre, le consigli sulle foto. E quindi Gianluigi, a te un breve racconto. Bene, cercherò. Grazie, buonasera a tutti, io ringrazio quelli che sono venuti, tutti gli intervenuti e anche soprattutto direi da Antonietti e tutti i collaboratori quanti hanno lavorato per riallestire questa mostra che facevo un giorno che Sergio ci telefonò e disse dovete tirare fuori le foto che avete fatto 10 anni fa, adesso sono passate altre 10 o 15, quindi siamo qua. Le foto nascono da un'esperienza per me molto interessante, ma per la verità sono forse l'ultimo prodotto di una serie di campagne fotografiche. Io ricordo i primi incontri con Renzo, ricordo la sua passione per certe cose, ma allo stesso tempo la grande distanza che poteva avere per la tecnologia. E quindi disdegnando la macchina fotografica, la pellicola, l'esposimetro, aveva bisogno di questi strumenti. Le prime volte mi fece fotografare dei documenti d'archivio, poi dei bellissimi Cabrei, che cos'erano i Cabrei, cose spettacolari, queste piante a colori dei terreni. E poi cominciamo altre esperienze fotografiche. Nel 1971 la mostra Senigallia No, che vende origine alla locale associazione naturalista dai tempi molto lontani, fu fatta in giro di 2 o 3 settimane, tutta col piccolo formato, tutta di corsa, con Renzo che correva e spingeva, voleva che facessi le foto del finestrino dell'auto, con buon riscontro, perché fu un evento abbastanza importante. Ma poi successivamente facevo un'altra spedizione che precorrentrice forse di questa, molto più organica, più razionale, guidata da criteri assolutamente scientifici per lo storico, e cioè facemmo l'esperienza delle foto per il Picchio in Gallo, questo volume sulle Marche, sulla storia della nostra regione, che Sergio aveva ideato e che poi noi dovevamo realizzare. Ogni tanto pugnavamo anche nei confronti del nostro capo, ma poi si arrivava al traguardo e si era ben soddisfatti. E io su queste immagini devo dire poco, devo dire soltanto che sono una campionatura fatta con un criterio rigorosissimo, studiato lungamente da Renzo, discusso, approfondito, che ha richiesto, sì, ha richiesto solo la raccolta materiale per un anno di lavoro, questo è chiaro, ha richiesto tanti viaggi, tanti anche fatiche fisiche, perché bisognava spostarsi, poi si arrivava su un posto e magari non si poteva fare la foto, io tentavo di dire che non si poteva fotografare e Renzo si arrabbiava, e allora vabbè, dai complimenti del fotografo della Frasca quando facevamo il Picchio in Gallo, che cercavo il primo piano, allora mi dava questi titoli alle altre difficoltà. Diceva, ma insomma, fai questa foto. Io gli dicevo, non posso farla, non sono io che faccio la foto. Ma chi la fa? La luce. Ora si arrabbiava ancora di più, perché bisognava comunque portare a casa un bottino che poi sarebbe stato anche visionato la cosa, perché dopo la fase di ripresa, le immagini sono tutte diapositive stampate allora su cima, però si sono conservate bene. A noi servivano le diapositive per esigenze tipografiche di fare appunto la stampa, ma una parte considerevole è quella in bianco e nero, che abbiamo poco utilizzato, che io conservo gelosamente, perché dotata anche di appunti, delle schede preziose che Renzo faceva, disegnava con questa sua prima stilografica, in questi quadernetti con molta pazienza, ma con grande precisione, con grande senso dell'individuazione del particolare decisivo. Prima Vigliano ha ricordato Buffini, io ne potrei ricordare altri, anche di episodi che lei ha ricordato, i nomi che venivano dati, che poi venivano memorizzati. Ricordo che una provincia di Ascoli Piceno, ci spiegavano che in quella capanna c'erano i rabbitti, e noi eravamo molto preoccupati perché non riusciamo a capire che razza di animali fossero questi rabbitti. Poi il contadino era stato emigrato, era stato emigrato negli Stati Uniti, e la corruzione del termine rabbit non portava il cognome dei rabbitti, e così via, insomma, tanto per ricordarlo. Poi, e chiudo con questo, vorrei sottolineare due aspetti di questo rapporto che c'è stato con Renzo in questi episodi, non solo in questi episodi. Innanzitutto che questa cavalcata lunga, faticosa, onerosa, anche perché non lo facevamo certo per il compenso che poi non copriva nemmeno metà delle spese, ma questa cavalcata è servita a me moltissimo per aprirmi una finestra su questo grande patrimonio. C'è oltre 100.000 case Mattia, fino a quelle che erano le testimonianze che allora raccoglievamo, che erano in fase di scomparsa o che sono scomparse. Riuscì durante una parentesi politica negli anni 85-90 a portare una proposta di legge che non sempre il consigliere, invece allora opposizione, insomma, può portare in porto, a far approvare la legge numero 33 del 90, che è una legge regionale ancora non abrogata, esiste, non finanziata, ma questo per 3 anni comunque fu finanziata, che consente a certe condizioni il recupero del patrimonio di queste case coloniche. E poi forse dovrei dire altre cose, ma sono molto personali, legati al ricordo con Renzo, alle grandi lezioni di fronte alle piccolissime che io potevo dare, in massimo che facevo la consulenza botanica o riuscivo a identificare una pietra o qualche uccello o animale che vedevamo in campagna, da parte mia, mentre lui sfogliava così il grande libro della storia, dell'arte, diciamo della cultura in generale, con il suo sapere, con la sua anima ricca e generosa, e anche con i suoi aspetti di profonda moralità, di grande senso civico, che fino all'ultimo ha dato anche qua, l'anno scorso, il 25 agosto, quando uscendo mi vide che tiravo fuori la piccola macchinetta digitale, dice: ma che cos'è Giardini? Questa è una macchina digitale che ai nostri tempi non c'era, se ne possiamo parlare, mi spieghi qualcosa? E dico sì, adesso a settembre, purtroppo a settembre Renzo è caduto malato e ci ha lasciato. Con questo, con una scaletta che ho in mano, perché me l'aveva insegnato lui quando appena ancora studente, fai una scaletta, non scrivere mai niente di quello che devi dire, e ecco qua che ti saluto, grazie per essere venuto.